Preghiamo prima di iniziare. Signore Gesù, ti ringraziamo perché possiamo essere qui. Padre, ti ringraziamo perché siamo nelle tue mani e i tuoi piani per noi sono meravigliosi, Signore. E sono convinto anche questo pomeriggio e questa sera hai cose meravigliose da darci. Per questo, Padre, ti prego di aprire i nostri cuori, Signore, a ricevere quello che il Tuo Spirito ha per noi, Signore. E che, Padre, non possiamo indurirli, ma aprirli a Te, che hai cose buone sempre per noi, Signore. E, Padre, perché Tu sei papà e perché noi siamo i Tuoi figli, Signore, e Tu sei il miglior papà e sai essere il miglior papà, Signore. E, Padre, per questo siamo qui e siamo qui anche per i nostri figli, Signore, e Padre, te li rimettiamo nelle tue mani, Signore, continuando a chiederti per la sapienza, Signore, per la guida, per la forza, Signore, di crescerli a tua immagine e somiglianza, Signore, affinché possano essere tuoi discepoli, Padre, che non possano seguire i canoni di questo mondo, ma la tua meravigliosa luce, Signore. Padre, per questo siamo qui e per questo ci rimettiamo a te, rimettiamo noi stessi a te, rimettiamo i nostri figli a te, Signore. E Padre, ti ringraziamo anche per il pastore Larry che è qui, Signore. Rimettiamo anche a lui a te, Signore, che tu possa dargli la serenità, la pace, la forza di comunicare, Signore, le tue parole, Signore. Benedici questo nostro tempo nel tuo santo nome. Amen. Amen. Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Angelo, mi fai un favore, vi sedete qua, voi che siete bravi e bellissimi. Sai, così ci concentriamo tutti al centro e non ci disperdiamo. Grazie. Questo pomeriggio e questa sera, secondo me, è un vero e proprio dono da parte del Signore. Perché? Perché da quando io e Carly guidavamo le coppie, avevamo sempre tante coppie che ci dicevano però abbiamo bisogno di, non sappiamo come fare con i figli, ma allora noi eravamo già giovani, avevamo i bambini piccoli, non lo sapevamo noi come farlo, figuratevi insegnarlo. Invece io credo che questo pomeriggio, questa sera, è un vero e proprio dono da parte del Signore, avere una persona come Pastor Larry qui. 20 anni fa, no, per la precisione 18 anni fa io sono arrivato negli Stati Uniti, non parlavo bene l'inglese, avevo appena lasciato mamma e papà mio, quindi ero un po' sperduto, ero un pulcino, così mi descrivo, un pulcino bagnato appena uscito dal guscio. Ed ero veramente spaesato, solo impaurito, ed è venuto Pastor Larry e lui mi ha preso sotto le sue ali come una brava chioccia e si è preso cura di me lì. Ha dimostrato a me l'essere padre veramente. Lui ha questo cuore di padre ed è una cosa meravigliosa. Lo ha fatto con me personalmente, l'ha continuato a fare, lo fa fino ad oggi. Ci sentiamo ogni tanto via Skype quando ho un problema. Larry, PL lo chiamo, dico PL, ho bisogno di questo, per piacere, come si fa questo? È raro però lo faccio e lui è sempre così pieno di grazia e di aiuto. È da 37 anni pastore. È da 37 anni pastore dei bambini, quindi ha un'esperienza grandissima con i bambini, con i genitori, però non ha perso mai l'umiltà e il cuore per i bambini e per la famiglia. Questa è una cosa meravigliosa. Lo stimo tantissimo, lo voglio tanto tanto bene, lo ringrazio tantissimo per il fatto che è qui. È una persona non solo che è pastore di una chiesa che ha 3.000 membri e quindi non so quanti bambini, però immaginate voi quanti bambini, quindi supervisione, quante famiglie, però fa almeno 5 viaggi all'anno in tutto il mondo per aiutare monitori a seguire i bambini, a dargli la passione per i bambini. E non lo fa nei posti facili dove si può fare. Immaginate un po', vi dico che le ultime nazioni dove è stato è la Siria e Baghdad in Iraq. Lì va i credenti che sono rimasti, quelli che non sono scappati dalla guerra, per ministrare a loro, per incoraggiarli e per continuare a dare loro una visione per i bambini non raggiunti. È una cosa eccezionale, è un privilegio averlo qui e quindi smetto io di parlare e passo la parola a lui. try to do without. Ok, lo faremo senza microfono. Okay. It's great to be here. È fantastico essere qui. It's my first time in Italy. È la mia prima volta in Italia. And I hope it won't be my last. E spero che non sia l'ultima. Yeah, I've been a pastor for children for 37 years. Sì, per 35 anni sono stato un pastore per i bambini. It's the joy of my life. Ed è la gioia più grande nella mia vita. I've been married for 43 years. Sono sposato da 43 anni. That's my lovely wife. Questa è la mia moglie bellissima. 43 years we've been together. 43 anni, siamo stati insieme per 43 anni. That's the longest I've ever been married. È il tempo più lungo che sono stato sposato. She's a very godly woman. She serves in the church. È una donna di Dio, serve in chiesa. We have four children. E noi abbiamo 4 figli and 10 grandchildren. E 10 nipoti. So we are getting old. Quindi stiamo diventando vecchi. But I wanted to tell you a little bit about my family because we are a very unusual family. Ma vi voglio raccontare un po' della mia famiglia perché non siamo una famiglia proprio ordinaria. After we were married, my wife discovered that she was going to have a baby. Dopo esserci sposati, mia moglie ha scoperto di aspettare un bambino. And actually the baby was twins. E in realtà stava aspettando gemelli. And in the fourth month of the pregnancy, one of the twins died. E al quarto mese della gravidanza, uno dei gemelli è morto. And the remaining twin was born very early. E il gemello sopravvissuto è nato molto molto prematuro. And so he was born with cerebral palsy. Quindi lui è nato con una paresi cerebrale, un handicap. His brain was damaged. Il suo cervello era danneggiato. And so the communication between his brain and his muscles was disrupted. E quindi la comunicazione tra il cervello e il suo corpo era non funzionava bene. So he walks with his legs bent. Quindi lui cammina in questo modo, con le gambe piegate. But he is a very godly man. Ma lui è davvero un uomo di Dio. Lui è sposato e ha 3 bambini. And in the spring, e la scorsa primavera, their whole family is going to live in another country as missionaries. La prossima primavera tutta la famiglia andrà a vivere in un altro paese per una missione. And we are very proud of them. E quindi siamo davvero così orgogliosi di loro. For me, as a father, to see my son go into ministry. Da padre, guardare mio figlio vivere il ministerio. It's a great joy. È una gioia grandissima. And to see a son who has physical disability. E vedere un figlio che ha delle difficoltà fisiche. He's in a wheelchair most of the time. Che è costretto a stare su una sedia a rotelle per tutto il tempo. For him to say, nothing is going to stop me from doing God's will. Vederlo dire niente mi può fermare dal vivere la volontà di Dio, dal fare la volontà di Dio. It makes me very proud as a father. Mi rende davvero orgoglioso come padre. Well, then we had a little girl. Poi abbiamo una ragazza. A very strong-willed little girl. E lei è una ragazzina molto molto forte. Very stubborn. Molto testarda. Michael, our oldest son, was always very easy. Michael, il nostro figlio più grande, è stato sempre molto calmo. Whatever you ask him to do, qualsiasi cosa gli si chiedeva, okay. Lui diceva ok. And he would do it. E poi la faceva. And if he disobeyed, e se disubbidiva, I would say, Michael, I'm so disappointed. Io magari dicevo, Michael, sono così deluso. And he would immediately repent. E lui subito si sarebbe pentito. Please forgive me. Per piacere, perdonami. Okay. Va bene, dai. Then this one came along. E poi la ragazza arrivò. This one who was strong-willed. E lei che ha una volontà così forte, so different. Così diversa dal fratello. We would tell her, no, don't touch this. Noi le avremmo potuto dire no, non toccare questo. Look right at us and touch it. E lei guardandoci l'avrebbe preso. And you would take her hand. No, no. E quindi, come si fa? Le avremmo dato uno schiaffetto sulla mano. No, no, no, non toccarlo. E lei avrebbe fatto questa espressione sul volto. E l'avrebbe toccato da capo. E quindi di nuovo le avremmo dato sulle mani. E quindi piange, lo prende di nuovo. Mi ricordo un giorno ero al lavoro e mia moglie mi ha chiamato. E mi diceva: sono così stanca di dare gli schiaffi sulle mani. Ho paura che qualcuno presto chiamerà tipo il governo. Così diversi. Ma sempre gli abbiamo detto: Amanda, you are so strong. Amanda, sei così forte. You are so stubborn. Sei così testarda. And right now you are using it for yourself. E adesso stai usando questo per te stessa. But if you will use this for God, ma se solo usassi questo per Dio, you will be a leader in the kingdom of God. Tu saresti una leader nel regno di Dio. To stand for the truth, che è ferma nella verità, to refuse to move, che rifiuta di spostarsi dalla verità, that makes her a strong woman of God today. Ed è questo che la rende una donna forte in Dio. She married a man in the military. Lei ha sposato un soldato, someone strong enough to handle her. Qualcuno che era abbastanza forte da poterla gestire. Now, while he's in Afghanistan and Iraq, e mentre lui è in Afghanistan o in Iran, at home on the farm, in Iraq lei è a casa in questa fattoria with three children, con tre bambini, 350 goats, con 300 capre. Yeah. She's a very strong woman. È davvero una donna forte. And then we discovered we could not have any more children. E poi abbiamo scoperto che non avremmo più potuto avere bambini. Always imagined that we would have three or four. Ma noi sempre abbiamo immaginato di avere, abbiamo desiderato di avere tre o quattro bambini. So we began to pray and ask God for another child. E quindi abbiamo incominciato a pregare e a chiedere a Dio di darci un altro figlio. And so we decided to adopt a baby. Così abbiamo deciso di adottare un figlio. So we went to the government agency. Quindi siamo andati alle strutture di adozione, ai posti di adozione. We ask about getting a baby. E quindi abbiamo chiesto di poter avere un bambino. But they said, oh, so many people want a baby. E loro ci hanno risposto: quante persone vogliono dei bambini? You will have to wait several years in line. Dovrete aspettare molti anni. Ma if you want a child who is a little older, ma se solo voleste un bambino che magari è un tantino più grande, or a child who is disabled, o un bambino che ha qualche tipo di handicap, we can give you one of those. Allora possiamo darvi uno di loro. So we thought we have one disabled child. E quindi abbiamo pensato: ok, abbiamo già un bambino che presenta un handicap. And we have a daughter who's very strong-willed. E abbiamo una figlia che è davvero molto molto forte. I think we've been prepared for another difficult child. Credo che siamo preparati ad accogliere un altro bambino che presenta delle difficoltà. So we said, let's see what children you have. E quindi abbiamo detto: ok, vediamo quali sono questi bambini, chi sono. They brought us over 1,000 pictures. E quindi ci hanno mostrato oltre 1,000 foto di questi bimbi. Just from my province. E solo della nostra provincia. That nobody wanted. E nessuno li voleva. So then we found one little 5-year-old boy. E allora poi abbiamo trovato un bambino di 5 anni. E si chiama Bobby. Bobby is now the same age as Gianluca. Bobby ha la stessa età di Gianluca. I think you are like 2 or 3 weeks apart, yeah? Forse avete solo 2 o 3 settimane di differenza. When Bobby was being born, Quando Bobby era ancora nel grembo della madre, la madre faceva uso di tante droghe e di alcol. E quindi il suo cervello è stato danneggiato da queste droghe, da questo abuso di alcol. E per questo, adesso lui ha 38 anni, ma la sua mente funziona come un bambino di 8 anni. So he still lives with us today. Quindi lui vive ancora con noi oggi. He has very difficult speech. Ha molte difficoltà per parlare. In my house, we use our hands to talk. Quindi a casa usiamo il linguaggio dei segni per parlare. So that we can understand what he's saying. Così che noi possiamo capire quello che ci sta dicendo. He also has very little hearing. E ha anche difficoltà nell'udito. His father used to be very frustrated with his speech. Il padre aveva molte difficoltà nel parlare. And he would burn him with cigarettes. E quindi lo bruciava con le cicche di sigaretta. E quindi l'ha colpito così tante volte in testa che ha danneggiato il suo udito. Ma questo è il bambino che Dio ci ha dato, ci ha donato. Lui ama Gesù. Lui ogni domenica si siede avanti in chiesa. He wants to keep an eye on the drummer. Gli piace osservare la batteria. He has drums in his room. Lui ha proprio una batteria nella sua camera. The entire neighborhood knows he has drums. E tutto il vicinato sa che lui possiede una batteria. He turns Christian TV up as loud as he can get. E ascolta la musica cristiana a volumi altissimi e quindi lui suona per Gesù. Dopo averlo adottato abbiamo scoperto che aveva un fratello, quindi abbiamo deciso di adottare anche il fratello. Ron ha anche delle difficoltà, ma non così gravi come quelle del fratello. And when Ron was 18 years old, e quando Ron aveva 18 anni, he embraced me and kissed me on the cheek, lui mi ha abbracciato, mi ha baciato sulla guancia and said goodbye. E mi ha detto arrivederci. Ron went and lived a very difficult life. E quindi Ron è partito verso una vita molto molto difficile. Ha incominciato anche lui ad abusare di droga e alcol. He ended up spending some time in jail. È finito in galera. He lived on the streets for a while. Ha vissuto per la strada per un tempo. He made a mess of his life. E la sua vita ad un certo punto era un macello. But he continued to hear that we loved him. Ma in tutto questo ha continuato a sapere che noi lo amavamo. I continued to speak the truth to him. Io ho continuato a dirgli, a predicargli la verità. We left the door open for him to return. Abbiamo lasciato la nostra porta aperta così che lui potesse ritornare. And finally, about 5 years ago, he began to change. E così 5 anni fa lui ha incominciato a cambiare. It wasn't until he was 36 years old. E non è successo prima che lui compisse 36 anni. But he began to get his life in order. Che lui ha incominciato a aggiustare, a riordinare la sua vita. Now, e adesso? He is married and has 4 children. È sposato e ha 4 figli. Lui è un uomo molto felice. Chiaramente sta ancora riordinando un po' le conseguenze della sua vita passata. Ma ci sta dando grandi gioie guardare quella relazione, aggiustarsi e ripararsi. There will be times in your life. Ci saranno periodi nella tua vita when your children may disappoint you. Nei quali magari i vostri figli vi deluderanno. You may get a call from the school. Forse la scuola ti chiamerà. Or even from the police. O forse anche la polizia ti chiamerà. And your heart is just attacked. E in quel momento il tuo cuore sobbalzerà. And you feel like a failure. E ti sentirai un fallito. And you think, what did I do wrong? E penserai, ma che cosa ho fatto di sbagliato? Qualcuno si è sentito mai in questo modo? What we had to discover. Quello che noi abbiamo dovuto capire. I didn't intend to tell you this. E non dovevo dirvi questo, ma the children will make their own choices before God. Ma i vostri figli prenderanno le loro decisioni davanti a Dio. Ed è la nostra responsabilità di amarli, insegnarli bene, incoraggiarli. Ma loro faranno una scelta. What would you say to a father who said, I raised sons and they all rebelled against me? Che cosa diresti a un padre che dice, a un padre che dice, ho educato, ho tirato su i miei figli e si sono ribellati tutti? Magari dillo alla persona accanto a te, che cosa diresti tu a questa persona che dice, ho educato i miei figli e si sono tutti ribellati. Quindi che cosa gli diresti? I feel bad for you. I'm sorry. I feel bad for you. I'm sorry. Ma se tutti i loro figli si ribellassero, what do you say? Che cosa direste? I would ask myself some questions. What do they have? You would. Yeah. Do you know who this father is? Sapete di che padre sto parlando? Isaiah chapter 1. Isaia capitolo 1 verso 2. God himself said, Dio stesso ha detto, I raised sons and they all rebelled against me. Ho tirato su i miei figli e si sono tutti ribellati a me. If God would have just been a better father, se Dio fosse stato un po' migliore, if he would have just been more loving, se Dio fosse stato un po' più amorevole, se avesse educato i suoi figli in una maniera migliore, è colpa di Dio. Right? È giusto? È vero? If God would have been more present, se Dio fosse stato più presente in the Garden of Eden, Nel giardino dell'Eden, se avesse camminato più spesso con Adamo ed Eva, se li avesse disciplinati meglio, se fosse stato un padre migliore, allora loro non si sarebbero mai ribellati. È vero? If Jesus would have been a better discipler, se Gesù avesse fatto un miglior lavoro nel discepolare, if he would have spent more time with the disciples, se avesse speso più tempo con i suoi discepoli, maybe Judas would never have betrayed him. Forse Giuda non l'avrebbe mai tradito. Am I saying the truth? Sto dicendo la verità? No. So if this happened to God, quindi se questo è successo a Dio, if this happened to Jesus, se questo è successo a Gesù, why do we think it won't happen to us? Perché mai pensiamo che non succederà mai a noi? Your children will make choices that sometimes disappoint you. I tuoi figli faranno delle scelte che forse ti deluderanno. You have to trust. E quindi noi dobbiamo fidarci di Dio e affidare a Lui la loro vita. Noi continuiamo a dire la verità, continuiamo ad amarli, lasciamo la porta di casa nostra aperta e continuiamo ad avere fiducia in quello che Dio sta facendo in loro. Ora, that's the end of a story we don't like. Questa è la fine della storia che non tanto ci piace. That motivates us to be here. Questo ci dà le ragioni per essere qui. Let's learn what we can. Impariamo quello che possiamo. So that that doesn't happen. Così che quello che ho appena detto non succeda. Right? Giusto? So that's why we're here. Quindi questo è il motivo per il quale siamo qui. While you were driving here, mentre stavi venendo qui in macchina, what were you thinking about? Che cosa stavi pensando? What did you hope you would hear tonight? Che cosa speravi di ascoltare qui questa sera? What's that one question you're hoping we will talk about? Qual è magari quel topic, quell'argomento che desideravi fosse trattato qui? This is your chance to help steer this little seminar. Questa è la tua occasione per aiutarmi a modificare un po' questo seminario in base a quello che voi volete sapere. So what are you hoping to hear? Quindi cosa speri di ascoltare? Quindi i genitori che discepolano i loro figli. What else? Ok, che altro? Nice and loud. Ho detto, come faccio a indirizzarla, a sperare che lei poi possa scegliere per Dio una volta adulta, educandola proprio a questo senso? Noi abbiamo tre figli. Uno viene in comunità ed è molto preso. Il secondo è un po' ribelle. Cioè, molte volte non vuole venire, lo costringiamo, e la piccola è piccola, ha 4 anni. Solo che, ecco, la nostra paura è che il secondo, costringendolo, non abbia ancora più ribellione in questo, quindi di conseguenza non si allontani ancora di più. E molte volte vediamo anche una sorta di ribellione anche da parte trasmessa alla piccola, perché anche la piccola molte volte segue l'esempio del fratellino, anche inconsciamente questo avviene, è quasi un ostacolo, cioè si forma quasi un ostacolo a venire proprio in comunità, e questa è la nostra grossa difficoltà in questo momento. Quindi si arrabbiano, ci arrabbiamo, non riusciamo veramente a gestire un po' la situazione. 12. Il secondo 12. Ragazzo di 16, 12 e 4. So if the 12-year-old doesn't want to go to the doctor, quindi se il tuo secondo figlio non vuole andare dal dottore, dal medico, if he decides he doesn't want to go to school, se lui decide che non vuole andare a scuola, do you say okay? Tu dici ok, va bene? Oh, you have to go to school. No, no, tu dici deve andare a scuola. You have to go to the doctor. E deve andare dal medico. But the most important thing of all, ma la cosa più importante di tutte, you don't have to go to church. È che non devi andare. Ah, e poi davanti alla cosa più importante dici non devi andare, no, puoi anche non andare in chiesa. Ma ne parleremo più a fondo. What else? Yeah. È ovvio che io voglio il meglio per mia figlia, mm-hmm, e cerco di educarla nel migliore dei modi. Ma questa è la mia prospettiva e io non so se quanto è giusto e sbagliato. Questa è la domanda che mi sono fatto mentre venivo qua e spero di capire qualcosa in più su dargli il meglio. Non so, forse sono troppo apprensivo o forse dovrei essere nel rimprovero più duro o di meno o di più e trovare l'equilibrio delle cose che non so. Però dalla mia prospettiva è ovvio che dico sto facendo bene. Ha 2 anni e mezzo, quindi non vedo appieno. You're raising them in the truth. Se li educhi e li tiri su nella verità, that's not just your perspective. Allora quella non è solo la tua prospettiva. So you have to make sure you're raising them according to God's word. Devi assicurarti che li stai facendo crescere in accordo con la parola di Dio e non in accordo solo con la tua opinione. So even for parenting, this is our God. Quindi anche nel nostro essere genitori, questo è il nostro, la Bibbia è il nostro Dio. Because you have to be convinced, perché what you're doing is right. Tu devi essere convinto che quello che stai facendo è giusto. If you're not sure, se tu non sei sicuro, they're going to understand this. Loro lo capiranno. And then I can choose or not. E quindi okay. Oh, posso scegliere quello che voglio, va bene. Can I show you? You know this baton for the race? Sapete la maratona, staffetta? Can you read Psalm 78? Sì. 1-7? Leggiamo Salmo 78. Dall'1 al 7. Salmo 78, dall'1 al 7. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole. Esporrò i misteri dei tempi antichi. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore e la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi li avrebbero così raccontate ai loro figli perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. This is our responsibility. Questa è la nostra responsabilità. One generation must tell the next generation. Una generazione deve raccontare alla prossima, all'altra generazione. So they will receive the truth. Così che loro possano ricevere la verità e loro possano mettere la loro fiducia in Dio. Che cosa succederebbe se non passassimo la nostra fede? Che cosa succede di solito al team? They lost. They lose. Sono squalificati. We cannot let that happen. Noi non possiamo permettere a questo di succedere. We have the responsibility to disciple our children. Noi abbiamo la responsabilità di discepolare i nostri figli. Questa è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. In the American church, nella Chiesa americana, we made a very big mistake about 25 years ago. Abbiamo commesso un grande errore circa 25 anni fa. Okay, we've made many mistakes. Okay, abbiamo fatto tanti errori. But we told parents, ma noi abbiamo insegnato ai genitori, we will develop a good training program for your children. Noi metteremo su un programma molto accurato per sviluppare, per far crescere i vostri figli. Bring your children to Sunday school. Portate i vostri figli al culto dei bambini. And we'll teach them. E noi li insegneremo. And parents did. They brought their children. E quindi quello è quello che i genitori hanno fatto, hanno portato i loro figli. They gave us the responsibility of training them. Hanno dato a noi la responsabilità di portarli su, di farli crescere. So now parents take their children to school. Così adesso i genitori portano i figli a scuola. They let someone else train them. E quindi permettono a qualcun altro di educarli. They take them to sport. E li portano a fare attività sportive. And they let the coach train them. E permettono all'allenatore they di allenarlo. They take them to learn the violin. E li portano a imparare a suonare il violino. And they let someone else teach them. E quindi permettono a qualcun altro di insegnare. And they bring their children to church. E poi portano i figli in chiesa. And let the church train them. E lasciano che la chiesa li educhi. And they say, e quindi loro dicono, ok, abbiamo finito. We checked all the boxes. Possiamo mettere un fatto a tutte le cose che c'erano da fare. And I've given my responsibility away. E quindi sto dando la mia responsabilità a chiunque. Is that correct? È giusto? This is not God's plan. Questo non rispecchia il piano di Dio. Children are leaving the church. I figli, i bambini stanno lasciando la chiesa. What they need is to know the truth of God's word. Ma quello che hanno bisogno è di capire e conoscere la verità della parola di Dio. And they need a relationship with someone who is living the truth. E hanno bisogno di avere una relazione con qualcuno che vive in quella verità. Hanno bisogno di ascoltarlo. And I need to see it in someone's life. E hanno bisogno di vederlo nella vita di qualcuno. Remember Jesus said about the Pharisees. Ricordate quello che Gesù ha detto riguardo i farisei? He told people, listen to what they say. Loro ha detto, ok, ascoltate quello che hanno da dire. But don't do what you see them doing. Ma non fate quello che fanno. So Paul was saying something very different. E invece Paolo stava insegnando qualcosa di molto diverso. Paul said, listen to what I say. Paolo ha detto, ascolta a quello che dico. And follow my life, because I'm following him. E segui il mio esempio perché io sto seguendo lui. Your children need to see that God's word. I vostri figli hanno bisogno di vedere che la parola di Dio è importante per te, nella tua vita. E che tu la stai vivendo in accordo con la parola di Dio. Che tu sei obbediente alla parola di Dio. Che tu ti penti davanti alla parola di Dio. Non riguarda soltanto quello che possiamo dire. Ma molto riguarda quello che possiamo dimostrare con la nostra vita. If we only speak, se noi parliamo soltanto, then when we pass the baton of faith, allora quando passiamo la staffetta della fede, children only take part of it. Allora i nostri figli prenderanno solo una parte. It's been said that the first generation of faith, è scritto che la prima generazione della fede, they are willing to die for what. Loro sono disposti a morire per quello in cui credono. But if we Ma se noi non trasmettiamo, non passiamo questo ai nostri figli, la prossima generazione accetta la verità. Ok? Va bene, questo è quello che i miei genitori credono. Va bene, magari lo faccio anche io. Quando loro passano la staffetta della fede ai loro figli, questi figli incominceranno a domandarsi: davvero vogliamo fare questo? Vogliamo vivere in accordo con questo? Mi sembra che ci siano davvero troppe regole. E poi la quarta generazione non riconosce alcuna importanza e quindi la rigettano, la rifiutano. Avete visto questo accadere? È perché la fede che noi trasmettiamo, che passiamo, forse non vive, non è viva in noi. Così che la cosa migliore che tu puoi fare per i tuoi figli è vivere per Gesù. Tutti i giorni. Deuteronomio dice: camminando, quando ti siedi, quando parli, quando lavori, in ogni cosa che fai, loro ascoltano di Gesù. Loro possono vedere la parola di Dio che vivere nella tua vita. Loro mi vedono che lavoro, diciamo, con la parola di Dio. E loro sanno che tu sei innamorato di Gesù. Lo capiamo questo? Perché noi stiamo insegnando perché per un proposito, per una visione. Quando viaggio attorno al mondo, ho la possibilità di conoscere tante persone che lavorano con i bambini, insegnanti. E molte volte loro si concentrano su solo due cose: informazione e comportamento. Sit down, be quiet, I want to tell you something. E sedetevi in silenzio, vi voglio insegnare qualcosa. And then they say their Bible story. E quindi loro poi raccontano la loro storiella della Bibbia. I have good behavior. E c'è un buon comportamento. You know the information. Adesso sai le informazioni. I'm finished. È fatta. Is basta. Right? È vero? Is that learning? E quello davvero può insegnare? Am I making disciples? Sto facendo dei discepoli, sto formando dei discepoli. E no. I have to see what? Io devo vedere che cosa. Yeah, transformation. Devo vedere una trasformazione. I need to see their hearts change. Io devo riuscire a vedere il loro cuore cambiare. Non è cioè non riguarda soltanto un buon comportamento, l'avere un buon comportamento. I want to see God. Ma io voglio vedere che Dio cambia i loro cuori. Io non voglio dei bambini che si sanno comportare bene e che sanno le risposte alle domande sulla Bibbia. Ma io voglio vedere i loro cuori trasformati da Dio. I remember being at the hospital. Mi ricordo una volta ero in ospedale and my oldest son, Michael, e il mio figlio più grande, Michael, they were in the room having their first baby. E loro erano nella sala operatoria per avere il loro primo bambino and they wouldn't let me in. E loro non mi hanno permesso di entrare. The wife. E la moglie. And I'm listening at the door. E quindi sto lì origliando. And then I hear the baby cry. E ad un certo punto sento il bambino and piangere. I hear my son. E sento mio figlio. And he's saying, Hello, baby. E lui sta dicendo, ciao bambino, ciao. E io sono così felice. Finalmente aprono la porta. E il nonno finalmente può entrare. E così prendo in braccio quella bambina meravigliosa. E dico, Michael è così bella. Ma guarda. Look, she has an evil little heart. Ha un cuore malvagio. He said, not today, Dad. E lui fa, papà, non adesso, per cortesia. I said, but you know this is true. Ma, e ho detto, ma tu sai che questa è la verità. And your mission is to see her transformed by God's power. E la tua missione è quella di vedere il suo cuore essere trasformato da Dio. We always think that babies are born so innocent and pure. Noi pensiamo sempre che i bambini nascono così innocenti e puri. And so we try to keep them from anything evil. E così cerchiamo di proteggerli da ogni cosa che possa essere malvagia contro di loro. We keep away those other bad children. E li allontaniamo da tutti i bambini cattivi. We make sure they don't see anything bad on TV. Ci assicuriamo che non guardino niente di male in televisione. Maybe we even keep them in the house and educate them ourselves. Probabilmente non gli permettiamo neanche di andare a scuola, gli facciamo lezioni a casa. Because I'm trying to keep everything evil away from my Perché sto cercando di proteggere i miei figli da tutto il male che c'è fuori. But the most evil thing of all, ma la cosa più malvagia we cannot keep away from them. E da quella cosa non possiamo proteggerli. What is it? E che cos'è? Lo sapete? Their heart. It's their heart. Il loro cuore. The Bible says the heart is wicked and deceitful more than anything else. La Bibbia dice che il cuore dell'uomo è la cosa più ingannevole. They weren't born as little sheep. Loro sono nati come delle non sono nati come delle pecore, delle piccole They were pecore. Born as little goats. Ma sono nati come delle capre. Do you remember when Jesus separates the sheep from the goats? Ricordate quando Gesù ha separato le pecore dalle capre? All of us used to be goats. Tutti quanti noi eravamo questo. But then one day God, by his mighty power, ma poi un giorno Gesù, Dio in accordo con il suo piano meraviglioso, lui ci ha salvato attraverso il sangue di Gesù. And we were transformed. E così siamo stati trasformati. But we are very unusual sheep. Ma noi eravamo delle pecore non ordinarie. We are sheep that give birth to goats. Perché siamo delle pecore che facciamo nascere delle capre. And our mission is to see them transform. Ma la nostra missione è di vedere la trasformazione. La trasformazione che può avvenire solo attraverso la potenza Not di Dio. Just a goat that obeys. No, solo una capra che ubbidisce. Not a goat that knows all the right answers. No, solo qualcuno che sa tutte le risposte, ma qualcuno che è stato trasformato dal potere, dalla potenza di Dio. So this responsibility is very big. E questa responsabilità è molto grande. It's something that happens every day. È un qualcosa che succede ogni giorno, giorno dopo giorno. Conoscete questo tipo di caramella? Pop Rocks. Si chiama you know Pop Rocks. Mm. Not no. Here? No. non ce l'abbiamo questo tipo di caramelle. Ok, quindi non mangiate subito queste caramelle, le mangeremo tutti insieme, quindi tenetele per un attimo. You want one? Are you having one? No. Okay, that's fine. Because I have to talk. Yeah, you have to talk. So I want you to open the candy. Quindi, aprite adesso queste caramelle. Le aprite, non mangiatele. No. And when I say adesso, e quando dico adesso, then I want you to pour some candy into your mouth, voglio che le mangiate tutte una volta, but keep your mouth open. E che teniate la vostra bocca chiusa. Ok? Okay? Scusate, aperta. Open, sorry. Open, yeah. Aperta. Don't say anything, just listen. Quindi non dite niente, ascoltate soltanto quello che succede. Are you ready? Siete pronti? Ok, adesso. Adesso. Can you hear it? Lo potete sentire? It's alive. È vivo. It's living in your mouth. È vivo nella vostra bocca. Can you feel it? Lo potete sentire? E potete ascoltarlo? I love this candy. Mi piace un sacco questa caramella. Look at the person next to you. Guardatevi a vicenda. Okay, you can chew it. Ok, potete masticare adesso, potete chiudere la bocca. This candy reminds me of what parents should be like. Questa caramella mi ricorda quello che i genitori dovrebbero essere. Your mouth should be filled with the living word of God. La tua bocca deve essere piena, riempita della parola di Dio. God's word is effective. La parola di Dio è efficace. It's active and è attiva ed è vivente. When God gave the word to Moses, quando Dio ha dato la parola a Mosè, these are not ordinary words. These are your life. Ha detto: queste non sono delle parole ordinarie, questa è la tua vita. Parents, your mouth should be filled with God's word to your children. Quindi, genitori, le vostre bocche dovrebbero essere riempite della parola di Dio. Not your own opinion. No, la vostra opinione. Not what you hear in the community. No, di quello che si ascolta nella società. But God's word. Ma della parola di Dio. When my children were growing up, quando i miei figli stavano crescendo, and we would watch television together, e magari guardavamo la televisione insieme, they didn't like for me to be in the room. Loro non volevano che io stessi nella stanza. We'd be watching a little comedy, magari guardavamo una commedia, and some teenager would disobey their parents, e qualche adolescente nella commedia disobbediva ai genitori. And I would say, do you see what that one is doing? E io dicevo, ma lo vedi cosa sta facendo? What does God's word say about that? Che cosa la parola di Dio direbbe su questo? I was trying to use every opportunity. Ma io cercavo di usare, di sfruttare ogni occasione to use God's word, to speak it to my children. Per far conoscere, per parlare la parola di Dio. Everything we saw in nature. Tutto quello che vediamo nella natura. We have a slug. Do you know what slug is? Do you have it here? Okay, le lumache, abbiamo le lumache senza guscio. And my daughter, there was one summer when she fell in love with these little slugs. C'è stata un'estate e mia figlia era innamorata di queste lumache senza guscio. Because they would leave this little silver trail. Perché lasciavano questa scia argentata. She thought it was so sweet. E pensava che era così carino, così dolce. She wanted to bring one into her room. E quindi voleva portare una nella sua stanza. So I said, isn't that beautiful? E quindi ho detto, non è bellissimo? Everywhere it goes, it's leaving a trail behind. Dovunque vada, lascia questa scia. Amanda, what do you leave behind after you leave a Amanda, nel momento in cui lasci una stanza o lasci dopo aver parlato con qualcuno, qual è la scia che rimane? David said, "Surely goodness and mercy follow me." E Davide ha detto, di certo, bontà e grazia mi seguiranno. What's following you? Che cosa tu stai lasciando? Che cosa, sì, che cosa lasci? She said, "I never thought of that." E lei mi ha risposto, non ci ho mai pensato. Because usually when she left the room, perché di solito quando lasciava una stanza, she left it with lots of trouble. Quello che lasciava erano un sacco di situazioni un po' difficili. People were happy to see her go. E le persone erano felici quando, insomma, se ne andava. So you look for every opportunity to connect it with God's word. E quindi cerchiamo ogni opportunità per connetterci alla parola di Dio. That's what Deuteronomy was talking about. Questo è quello che Deuteronomio ci insegna. So looking for opportunity to fill your words. Quindi cerchiamo le opportunità per riempire la nostra bocca di parole di verità. That candy is a good picture of that. E quella caramella dimostra molto bene questo concetto. Would you turn to someone next to you? Perché non ti rivolgi a chi ti sta accanto? And explain to them what you just heard me say. E spiega quello che hai appena imparato da me in questo momento. Say it in your own words to someone. Dillo a parole tue, che cosa hai ascoltato, cosa hai imparato. Quindi hai una domanda? Sì, sì. Con mio figlio di 12 anni, 13 anni, noi cerchiamo già di fare questo, ma di solito la sua risposta è: ma per cortesia parlate sempre di Dio, lo mettete sempre in mezzo. Lui accetta la parola di Dio, accetta la verità di Dio, ma in questa stagione della sua vita si sta confrontando con i suoi amici, con i suoi coetanei, e quindi la domanda è: come possiamo rispondere a questo atteggiamento? This is who I am. Questo è chi sono. I love Jesus. E io amo Gesù. And I'm gonna talk about him all the time. E io parlerò di lui sempre. I can't keep it hidden. Io non posso trattenermi. So, this is the dad you got. E quindi questo è il papà che ti è capitato. So I have to keep living my life in quindi front of you. Devo poter vivere la mia vita davanti a te. I'm not gonna try to change. E non cercherò di cambiare and keep it inside. E di trattenere. È vero. Non è solo qualcosa che io penso o io credo, è la mia vita. E quindi non penso che dobbiamo chiedere scusa per questo. Ma bisogna, si può pregare per loro, certamente incoraggiarli, parlare la verità di Dio a loro. Ma non puoi cambiare chi sei. E certamente tutti quanti attraverseranno quella stagione nella quale quello che tu hai sempre detto loro, adesso loro lo vogliono esaminare e vogliono decidere se crederci e se accettarla nella loro vita. That's the transformation, ed è proprio lì che avviene la trasformazione. Maybe it's still some of the information and behavior. Forse c'è l'informazione e il comportamento. And they are examining the truth. E quindi in questo momento stanno esaminando, stanno analizzando la verità. Sometimes parents will hear that examination. E qualche volta i genitori ascoltano, vedono questo esaminare dei propri figli and they will be very concerned. E incominciano a preoccuparsi. Oh, what's happening to my child? Che cosa sta succedendo a mio figlio? I think this is a good thing. Ma io penso che questo sia una bella cosa, una buona not cosa. Just following it because mom and dad said so. Loro non stanno semplicemente seguendo perché mamma e papà dicono questo. They're seeking God. Ma loro stanno cercando They're Dio. Questioning it. Stanno mettendo in discussione. I want them to accept it and believe it, yeah? Perché così possono accettarle e crederci. Questo è un grafico che presenta la vita di un figlio dall'età dei 0 anni ai 18. When a child is born, quando un figlio nasce, how much control quanto controllo? Do you have over your child? Quanto controllo hai sulla vita di tuo figlio? 100%. 100%. Sì, abbiamo il 100%. Tu fai tutto per lui. My wife used to say, mia moglie? Lei non è proprio una che ci sa fare benissimo con i bambini? E diceva, mi sento come se lo sto facendo sopravvivere. Che... And I said, that's a good thing. E ho detto, ok, questo è buono, questo è già buono. But you have 100% control. Ma abbiamo il 100% di controllo. As a child goes to 18, quando nella crescita del bambino verso i 18 anni, what happens to control? Che cosa succede al controllo? Hopefully it doesn't go boom like that. Speriamo che non vada direttamente a picco giù, kind of going like this, yeah? Ma è decrescente. Ora, quanta influenza hai su tuo figlio quando è nato? Come... In che modo puoi influenzarlo? La possibilità che hai di discutere, di ragionare con lui, di dimostrargli un esempio. Quanto di questo è possibile avere quando hanno 0 anni? Abbiamo 0 qui. By the time they're 18, avvicinandosi ai 18, qual è la tua speranza? I say hope. Io dico speranza, sì. Your hope is that it will be growing. La tua speranza è che sarà crescente. This is the most difficult time in your life. Questo rappresenta la stagione più difficile della tua vita. perché stai perdendo il controllo e non hai neanche tanto modo di influenzare. E 13, 14, 15 anni. And we try to say the words to influence them. E quindi cerchiamo di parlare per influenzare i nostri figli positivamente. E loro dicono, no, non penso. What? Maybe you didn't understand me. E cosa è? Forse non hai capito molto bene. Lascia che te lo spieghi. No, non sono d'accordo. You know, if you do that, you're going to have big trouble. Sai che se continui a fare questo ti trovi nei guai. Ti sto solo avvisando. What do you want to choose? Che cosa vuoi scegliere? No, non, proprio non mi interessa. I'm telling you, if you do that, you're going to go to your room. Te lo dico, se lo fai, te ne vai in camera. Non mi interessa. And then it's punishment. E poi arriva la punizione. What do we do? Ma cosa facciamo? When influence isn't working, quando non abbiamo tanto modo di influenzare positivamente, we go back to what worked before. We return to what worked well before. Ritorniamo a quello che funzionava prima. And we want to raise control. E quindi vogliamo aumentare il controllo. Okay, give me your phone. Ok, allora dammi il tuo telefono. Go to your room. Vai nella tua stanza. No friends anymore. Non avrai più un amico nella tua vita. And give me that girl's phone number. E dammi il numero di quella ragazza. È quello che cerchiamo di fare, di usare quello che funzionava prima. Ma funziona? Forse funziona all'inizio per un po', ma poi si ribelleranno. Quindi dobbiamo focus on the most important tool we have. Quindi dobbiamo concentrarci, concentrarci sulla relazione che abbiamo con loro, sull'influenza che possiamo avere su di loro, insegnando loro la parola di Dio quando ancora sono piccoli, sono giovani. Molte volte i genitori cercano di mantenere il controllo al 100%. And then they have, and all along they have zero influence. E per tanto tempo hanno zero influenza. And they hope they can do that. E poi si spera che questo succeda, no? Che tutto ad un tratto si abbia il 100% di influenza. Ma non funziona mai. Perché dicono, ehi, chi sei? Ma da dove viene quello che mi stai dicendo? So you have to be building that relationship, that influence all along. Quindi è durante tutto il percorso di crescita che bisogna alimentare questa influenza. Perché il controllo diminuisce. Quando ritorniamo dalla pausa, parleremo della disciplina secondo la Bibbia. E come usare la disciplina per discepolare. You have any questions about discipline? Avete qualche domanda sulla disciplina? Oh, you have it, done? Sapete già tutto, benissimo. Okay, we're taking a break for... Quindi abbiamo 15 minuti di pausa. Quindi vogliamo prendere un po' di tempo per parlare della disciplina. When I was recently in Africa, e di recente sono stato in Africa. Some of the Christian parents, e alcuni dei genitori cristiani were asking me about discipline. Mi stavano facendo delle domande riguardo la disciplina. And this is what they use. E questo è quello che loro usano? Yeah. This is, hurts. Fa male. You want me to show them? Volete che ve lo mostri? No, we won't do that. And they said, we as Christian parents want to be different than the parents in the E mi dicevano, noi, in quanto genitori cristiani, vogliamo essere diversi dai genitori che non conoscono Dio. Quindi quanto spesso possiamo usare questo con i nostri figli per punirli? E continuare allo stesso tempo ad essere dei genitori amorevoli. E quindi ho avuto la possibilità di prendere questo e portarlo con me. Perché molto spesso noi pensiamo e accostiamo la disciplina alla punizione. Ma la punizione può avere una conseguenza sul comportamento, ma non cambia il cuore. Quindi può essere uno strumento, ma non è la soluzione. Perché se solo usiamo questo, allora ci frustriamo. E quindi poi pensi, no, ho bisogno di uno più grande. Magari quello funziona. Ma quello che Dio cerca è che noi diventiamo bravi a discepolare e impariamo a essere pastori dei nostri figli. Ed è un processo molto più difficile. Voglio che guardiamo come la parola di Dio ci disciplina. Così che questo possa diventare lo stesso esempio che noi usiamo, lo stesso modello che noi usiamo. Quando noi discipliniamo i nostri figli. Perché è così facile per noi fare questo e dire basta, finiscila. Vai nella tua stanza. Ma questo non è lo stesso modo che Dio usa per disciplinarci. Possiamo leggere 2 Timoteo al capitolo 3, al versetto 16. 2 Timoteo 3, 16. E dice così. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Dice che la parola di Dio fa 4 cose per formare dei discepoli. Qual è la prima cosa? Qual è la prima cosa? La cosa che la parola di Dio fa, che cos'è? Teach. Questa è la strada della vita. E la prima cosa che noi dobbiamo fare in quanto genitori è insegnare ai nostri figli. Dobbiamo essere molto chiari. Questa è la via da percorrere. Questo è giusto e questo è sbagliato. E non ci sono domande a riguardo. Dobbiamo insegnare loro chiaramente quello che la parola di Dio dice. No, quello che il mondo fa. No, quello che magari gli amici fanno. Ma questa è la via da percorrere. E i miei figli dicevano, ma papà, i miei amici fanno questo, fanno l'altro. Scusami, questa non è la mia istruzione. Questa è un'istruzione, una regola di Dio. E se non ti piace, parlane con Dio. Devono sapere, devono conoscere quali sono le regole in casa. E dobbiamo essere molto chiari a riguardo. Ma qualche volta i nostri figli, come anche noi, deviano. Qual è la seconda cosa che la parola di Dio fa? Riprendere, rebuke. Mm-hmm. It's rebuke, it means stop. Riprendere, che vuol dire fermati. And it's not an easy, hey, stop that. E non è questo tipo di ehi, basta, fermati. This is a compassionate. Questo è un fermati pieno di compassione, di amore. È un appello, un invito. No, non fare questo, non fare quello. Perché ci sono difficoltà, ci sono cose brutte se continui a percorrere quella deviazione. Io lo so, io ho commesso quell'errore. Non fare questo, è sbagliato. Basta, fermati. Per piacere. È così pieno d'amore. È così forte. Che porta al pentimento. E tu continui ad invitarli a cambiare finché non c'è questo pentimento. So how much time does this take? Quindi quanto tempo deve passare per il ravvedimento? Fino a quando non si pentono. Ed è così diverso che prendere il bastone e dire ehi, no, basta. Ha questo tipo di atteggiamento cambiato il loro cuore? No. Ma noi dobbiamo riprenderli in allo stesso modo di Dio, come Dio ci ha insegnato. E forse questo significa dire ehi, vai nella tua stanza. Questo è un problema grave, serio. Tu non puoi fare determinate cose. Quando parli e ti rivolgi a tua madre così, tu stai mancando di rispetto l'autorità di Dio sulla tua vita. Tu stai insultando mia moglie. Stai disonorando tua madre. Tu non puoi fare questo. Vai nella tua stanza. E verrò a parlarti tra un po'. E forse sarà proprio un processo che ci vede parlare e pregare con loro. Ricordare loro quello che la parola di Dio insegna. Fino a quando arriva quel momento che dicono ok, c'è ragione, scusa. E qual è invece la terza cosa che la parola di Dio ci insegna? Correggere, correct. Correcting. This is when we show children how to get back on course. E questo è quando mostriamo ai nostri figli come mettersi di nuovo sulla giusta via. We have to teach them how to repair the damage. Dobbiamo insegnare loro come riparare i danni che hanno fatto. Come restaurare la loro relazione con Dio. Come andare da mamma e chiederle scusa. Come rimborsare quello che magari è stato danneggiato. Dobbiamo insegnare loro come riparare, come correggere gli errori commessi. That word means, e quella parola significa? It's a picture of a tree. È rappresentata da un albero. Literally means, e letteralmente significa to stand up what has fallen down. Di rialzare quello che è caduto. When they sin, quando peccano, qualcosa è stato danneggiato. La loro reputazione, le loro relazioni. E adesso dobbiamo insegnare loro come riparare. E questo può anche essere un lavoro proprio spirituale nella loro vita. How much time does that take? Ora, quanto tempo questo processo può prendere? Not as simple as... Non è così semplice come schiaffeggiare. Vedete, questa è una punizione. Noi invece stiamo parlando di formare e far crescere discepoli, di educare. Qual è il prossimo passo? È educare alla giustizia. E questo è un po' come insegnare loro quello, il da farsi la prossima volta. Ok, la prossima volta, cosa devi fare di diverso? Quando sei arrabbiato e non sei d'accordo con le decisioni di che tua madre ha preso, e vuoi semplicemente dire qualcosa di cattivo e malvagio contro di lei, che cosa farai diversamente? Così per non commettere lo stesso errore. È imparare dal passato e preparar loro per il futuro. Così che li stiamo educando alla giustizia. E questo è molto diverso dalla sola punizione. E dice che l'obiettivo è così che loro possano essere preparati per ogni buona opera che Dio ha per loro. Io devo essere incoraggiato e spronato da quell'obiettivo. E perché Dio ha buoni propositi per te. E io voglio che tu sia pronto. Io voglio che tu sia educato. Ed è per questo che devi imparare tutte queste cose adesso. Devi imparare come resistere a questa tentazione, questa deviazione. Avete qualche domanda su questo? Questo è difficile, è duro lavoro. E prende tanto tempo. Perché stai davvero discepolando il tuo figlio. Qualche domanda? Sì. Esattamente, questo è proprio il punto. È che noi dobbiamo essere i primi a viverlo. Se noi a cena diciamo, non usiamo i cellulari, vogliamo essere una famiglia, vogliamo pregare insieme, voglio condividere con voi qualcosa che Dio ha insegnato a me. Quindi non usiamo i cellulari a tavola. Quindi famiglia, io voglio condividere con voi quello che Dio mi ha detto, però scusate un attimo, è perché è il lavoro, mi stanno chiamando dal lavoro. Sto solo cenando con la mia famiglia. Cioè, che cosa ho insegnato ai miei figli in quel momento? Che cosa gli ho insegnato? Che le regole non contano, non hanno importanza. Ma io devo essere il primo a seguire. Devo insegnare loro attraverso il mio esempio. Lo schiaffo serve o non serve a questo punto? At the dinner table? Durante la cena. Yeah, your family has to decide if spanking is appropriate. La tua famiglia, tu con la tua famiglia puoi decidere se schiaffeggiare, per esempio, è appropriato. Older a child gets, I think the less effective spanking is. Più grande il bambino diventa e meno efficace è diciamo lo schiaffo che si può dare. And I don't think spanking should be a reaction. E io non penso che schiaffeggiare o comunque una punizione fisica dovrebbe essere una reazione. It needs to be a tool that you have chosen for a reason. Ma deve essere uno strumento che tu hai scelto per un proposito, per una ragione. Quando i bambini sono molto piccoli e ragionare non è proprio possibile, allora in quel caso lo schiaffo sulla mano no, non lo fare, è pericoloso. Perché attira la loro attenzione e loro capiscono. But when they're older, ma più grandi diventano and you're just doing something, e tu stai magari facendo delle cose e lo schiaffeggi per fermarlo, I never think that's appropriate. E io non penso che quello sia mai that's appropriato. You being out of control. Quello è sei tu che sei fuori, che non hai il controllo. Because then you will see them do that to brothers. Perché poi vedrai che loro lo faranno con i loro fratelli o sorelle. Touches their toy. Che magari prendono il loro giocattolo. Stop, fermati. Quindi non dovrebbe essere una reazione che non possiamo controllare. Ci sono delle volte che magari possiamo metterli in castigo e ne parliamo. E magari gli diamo due schiaffetti. Ma è un qualcosa che io ho scelto e ho deciso. Quello era il modo appropriato che noi abbiamo scelto per la nostra famiglia. Quindi ognuno dovrebbe decidere all'interno della propria famiglia che cosa fare. Ma mai come una reazione che scaturisce dalla rabbia. Let me show you four things. Lasciate che vi dimostri quattro cose. This is the attitude we need to have. Questo è l'atteggiamento che dovremmo avere nel disciplinare i nostri figli. The first one, maybe you can write it. Il primo è is choices. Sono le scelte. Your children need to understand they have a choice to make. I tuoi figli hanno bisogno di capire che devono fare delle scelte. God gives us choices. Perché Dio ci dà delle scelte da fare. I set before you life and death. Ho messo davanti a voi la vita e la morte. Blessing or curse. Benedizione e maledizione. E poi lui dice, please. Scegli la vita per piacere. Per piacere scegli la vita, ma ti do la possibilità di scegliere. No one makes you disobey. Nessuno fa sì che tu possa disubbidire. Children always say, "He made me do it." E i bambini spesso dicono, lui me l'ha fatto fare. Lui mi ha colpito per prima. Dovevo rispondere. Non avevo scelta. You always have a choice. Ma tu sempre hai una scelta. Tu scegli di ubbidire o di disubbidire. Molte volte noi mettiamo, affiggiamo le nostre regole sul frigorifero. And then when they disobeyed a rule, e quando disubbidiscono a una regola, I'm sorry, I didn't disobey. E io dico, scusa, io non ho disubbidito. Quella è la scelta che tu hai fatto. E quindi adesso c'è che cosa? Una conseguenza. We are very good at giving consequences. Oh, sorry. We are very good at giving consequences for wrong. Noi siamo molto molto bravi a dare delle a decidere delle conseguenze per un comportamento sbagliato. Se colpisci tua sorella di nuovo, allora sarai per una settimana nella tua stanza. E non guardare la televisione per il resto dell'anno. Non uscirai con una ragazza mai più nella tua vita. E quindi noi creiamo queste grandi conseguenze per un comportamento sbagliato. Ma dobbiamo anche dare, decidere delle conseguenze per un comportamento giusto. I nostri figli hanno bisogno di sapere che quando fai la giusta cosa, allora io ti benedirò. Allora io ti darò più opportunità. Ti darò più responsabilità. Perché mi fido di te. E allora Dio ti benedirà. Quindi dobbiamo far sì che il comportamento giusto sia attraente. Perché allora sceglieranno la via di Dio per una buona ragione. Non solo per evitare la punizione. Ora, la difficoltà è quando decidi una conseguenza per la disubbidienza, poi lo devi fare. Se quindi decidi una conseguenza così estrema e poi due giorni dopo dici a te stesso, ma che cosa abbiamo fatto? Io voglio che vada via a giocare fuori. E così poi la rimpiccioliamo la conseguenza. Allora loro finiscono per non crederci. Perché la terza cosa è coerenza. Questa è una difficile. Perché significa che noi dobbiamo fare quello che diciamo. Tutte le volte, sempre. Sia che tu sia stanco o meno. Sia che tu abbia tante cose da fare o meno. Sia che tu sia al ristorante o sia tra le mura casalinghe. Tu devi essere coerente. Quando ero un ragazzo avevamo un cane. Uno di quei bassotti lunghi, piccoli. E io sono il più grande di cinque fratelli, di 5 figli. And the dog would come to the table and beg for food. E il cane veniva spesso vicino al tavolo e voleva da mangiare. Quindi faceva questi versi per il mangiare. My mom would say, "Don't feed the dog." E mia madre diceva sempre, non dare al cane da mangiare. Ma è il mio cucciolo. So when my mother wasn't looking, e quindi quando mia madre magari non stava guardando, era distratta, eccomi qui che davo il cibo al cane. Non tutte le volte, ma qualche volta. Ma tutte le volte che eravamo a tavola, il cane era lì che veniva e chiedeva da mangiare. Lui veniva anche quando non riceveva nulla da mangiare. Perché? Perché ritornava sempre? Perché? Does he remember that he had food one time? Maybe this time I'll get what I want. Forse questa volta riesco ad avere quello che voglio. Have you seen this in your children? Avete visto questo tipo di comportamento nei vostri figli? Allora la mamma sta cucinando la cena. Mamma, posso avere qualcosa di dolce? No, perché sto preparando la cena. Devi aspettare più tardi. Mamma, per piacere, dammi qualcosa di dolce. No, sto cucinando, aspetta. Mamma, adesso, per piacere, adesso. Allora, ho detto no per cortesia, no. No, lo voglio adesso, ti prego, dammelo adesso. E cosa fa la mamma? Va bene, basta che ti stai zitto. L'hai fatto? L'avete mai fatto? Che cosa hai appena insegnato a tuo figlio? Qualche volta magari riesco a ottenere quello che voglio. Se piango abbastanza o abbastanza forte. E allora forse non ci credi davvero a quello che dici. Lei dice di no, ma io posso ottenere quello che voglio. Guarda giusto adesso. E quindi dobbiamo essere coerenti, dobbiamo sempre avere lo stesso atteggiamento tutte le volte. E questo per le mamme è molto difficile. Perché sono con i propri figli tutto il giorno. E quindi si stancano, e quindi devono lavorare, e vogliono semplicemente la quiete e la calma. Sì, vabbè, mangiateli tutti. E allora poi il papà ritorna a casa dal lavoro. Ehi, che cosa stai facendo? No, per piacere, per cortesia. E i bambini sono come dei soldati. Sì, signore, va bene, obbediamo. E allora il papà dice alla madre, ma qual è il problema? È così semplice. Guarda cosa ho appena fatto. Ho appena detto una parola e loro mi hanno obbedito. Eh sì, ma perché non sono stati lì tutto il giorno. Quindi siate pazienti. Ma è importante che noi siamo coerenti con quello che diciamo. O quello che stiamo insegnando ai nostri figli è semplicemente a non crederci. E poi la terza cosa è l'essere calmi, la calma. So che questo è tipico italiano. Ma io penso che noi abbiamo la responsabilità di avere il controllo, l'autocontrollo. Quando ero piccolo, mio padre era un militare. E quando ci parlava, lui schioccava le sue dita e diceva qualcosa. Ehi, basta. Lo diceva solo una volta. E noi sapevamo che era meglio ubbidirli in quel momento. Perché lui non l'avrebbe detto un'altra volta. Se noi avessimo continuato a fare quello che stavamo facendo, lui ci avrebbe preso e ce le avrebbe suonate. Lui non era arrabbiato, lui era uno che amava proprio la disciplina. Mia madre, al contrario, era l'opposto. Mia madre era una che gridava. E quindi quando mio padre non era nei dintorni, i cinque fratelli, noi stavamo sopra, litigavamo, e mia madre a cucinare giù. Ehi, finitela, verrò sopra. Ah, non ci crede neanche lei. E quindi continuavamo a litigare, continuavamo a fare i nostri comodi. E quindi incominciava ad alzare la voce. Ehi, ve lo dico adesso, per piacere, basta! Ma noi non ascoltavamo, continuavamo a litigare. E alla fine alzava la voce più che poteva. Allora adesso basta, finitela in questo momento. E quando sentivamo il suo piede colpire il pavimento, allora sapevamo che era seria, stava per venire. Quindi tutti quanti si tranquillizzavano, stavano in silenzio, perché sta per arrivare mamma. Lei ci ha educato a non ascoltarla fino a quando non alzava la voce al massimo. E quindi poi quando aspetti e quella rabbia si ingrandisce dentro di te e sei appunto arrabbiato e frustrato, e poi quando li trovi, è esattamente questo. He wants me to make the same sound. And then we say something we are going to regret. E poi diciamo delle cose di cui ci pentiamo. E facciamo delle cose di cui non andiamo molto fieri. E poi è lì è Dio che incomincia a parlare, a correggere il nostro cuore. E dobbiamo pentirci davanti a Dio. E dobbiamo andare poi dai nostri figli e chiedere perdono. E loro erano stati i primi a disubbidire. Perché io non ho l'autocontrollo. Perché ricordiamoci, noi dobbiamo essere l'esempio. Allora noi diamo loro la possibilità di scegliere chiaramente. Ne spieghiamo le conseguenze, poi siamo coerenti e facciamo quello che diciamo e facciamo tutto questo nel completo controllo, autocontrollo. Io sono molto orgoglioso quando sento i miei figli dire che non mi hanno mai sentito alzare la voce, non mi hanno mai sentito gridare contro di loro. Penso che sia perché sono cresciuto in una casa dove c'era molte grida e molta violenza. Io ho deciso di essere diverso. Ma loro sapevano che quando io dicevo qualcosa, davvero ci credevo a quello che stavo dicendo. Perché non ti rivolgi a chi ti sta accanto? E, Ed esprimi quale di questi quattro punti è quello più difficile per te personalmente. E perché? Puoi scegliere uno, due, tutte, non lo so, vedete voi. I'm going to try to finish. Quindi, qual è la cosa più difficile per voi? Consistency and calm. E quindi perché è difficile, possiamo evitare di farlo? Molte volte incoraggio i genitori, dopo un incontro, un seminario come questo, ad andare a casa, a rivolgersi ai propri figli e a chiedere scusa. E per piacere, perdonami. Io non sono stato un genitore come Dio vuole che io sia. Non ti ho sempre spiegato le scelte che puoi fare chiaramente. Non ti ho spiegato le conseguenze che ci sarebbero state. Scusami se non sono stato coerente tutte le volte con quello che ho detto. E qualche volta mi sono fatta prendere dal momento, dalle emozioni, non sono stato calmo, quiete con te. Per piacere, perdonami, perché da oggi io voglio essere il genitore che Dio vuole che io sia. E quindi ti darò delle scelte, delle opportunità. Ti spiegherò le conseguenze. E sarò coerente con quello che dico ogni volta in ogni cosa che faccio. E il primo giorno loro di solito sono contenti nell'ascoltare che ti dispiace. Oh, finalmente ti sei deciso a chiedermi scusa. Che viene, ti senti chissà chi. Finalmente. E poi incominciano ad ascoltare che tu sarai coerente con quello che dici. E tu cercherai di essere calmo, di essere autocontrollato. Quindi come farò a sapere quello che sta per succedere? E questo non sembra proprio giusto. Ma poi Tu incominci a fare quello che sai essere giusto. E una volta che lo dici a tuo figlio, ci sarà qualcuno al quale dovrai rendere conto. Perché se incominci poi a gridare, qualcuno ti dirà, allora. È buono che noi diciamo questo. Sì, e tuo figlio deve sapere che per te è una cosa seria il discepolare i tuoi figli. Qualche domanda circa questi quattro punti? Allora, capita, no, che non proprio riesco a fare questa cosa. Capita, un po' succede. Allora, vivo, poi quando vado davanti a Dio, comunque mi sento mancante, quindi vivo dei sentimenti che un po' mi buttano giù, non solo, cioè proprio ad affrontare il resto della vita, dico forse ho sbagliato, sarà difficile recuperare. E come lo vivo io in prima persona questo sentimento, per poi andare avanti e ricominciare? Io penso che queste sono cose che dobbiamo anche noi imparare, come anche i nostri figli. Ma noi non possiamo fare finta davanti ai nostri figli che siamo perfetti. Io sono il genitore. Non ha importanza. Fai semplicemente quello che ti dico di fare. Ma io penso che noi dobbiamo educarli con il nostro esempio, dimostrando umiltà e chiedendo perdono. Dobbiamo essere capaci di tornare ai nostri figli e dire «Ehi, scusami, si è alzato la voce contro di te». Questo non era un giusto atteggiamento da avere. E allo stesso modo io ti chiedo di avere il controllo su te stessa. È uguale come quando Dio ci chiede di avere il controllo su noi stessi. E quindi è un lavoro che facciamo insieme. Tutte le volte che come genitori possiamo collaborare con i nostri figli, questa è una cosa da non una cosa da fare, da approfittarne. Ok, allora preghiamo l'uno per l'altro. Io cercherò di avere più autocontrollo. E tu prega e chiedi a Dio di avere anche tu l'autocontrollo. All'improvviso diventate fratello e sorella in Cristo. No, non ci sei tu più ad avere l'atteggiamento oh, va bene per me, tanto io sono il genitore. Ma tu stai dando a loro un esempio di come essere un credente. Quando ho detto questo, quando ho insegnato questo in Africa, loro hanno cominciato un po' ad agitarsi. Se io dico a mio figlio scusa, potrò perdere il loro rispetto. Ma credi che questo veramente succeda? Non state muovendo, non state dicendo sì né no. Che cosa ne pensate? Si può perdere il rispetto così? No, they will. Sì, lo si acquista, non lo si perde. Ci spaventa, ma è vero, è un principio vero. Se noi siamo onesti e sinceri, allora loro diranno, mio padre davvero ci crede. Lui lo vive. Tutte le cose che lui vuole che io faccia, che io viva, lui le vive. E io lo rispetto. Se il tuo pastore venisse e ti domandasse scusa, allora penseresti di meno di lui? O penseresti, mamma mia, lui è un uomo di Dio? Let me show you something. You know what that is? Sapete di cosa si tratta? Sale. It is essential for every living thing. Ed è fondamentale per ogni cosa. Ogni animale e ogni pianta. E il sale è essenziale per la sopravvivenza. Ma in realtà il sale è composto da due elementi. Il sodio e cloro. Cloro. Cloruro. Il sodio da solo è un qualcosa che si usa per pulire le navi. Tutte quelle cose che crescono nella parte inferiore delle navi, si usa questo acido per pulire il metallo. Se entriamo in contatto con questo elemento, ci brucia la pelle. Ha il potenziale di ucciderci. L'altro elemento è usato nelle guerre per produrre un gas letale. Se respiriamo questo elemento, noi moriamo di certo. Ognuno di questi elementi da solo è letale, ma insieme diventano essenziali. Amore e disciplina. La Bibbia dice educate i vostri figli in cura, amore e disciplina. La Bibbia dice predicate la verità con amore. Se in casa tua solo c'è amore, oh cara, puoi fare tutto quello che desideri. Certo che puoi mangiare la torta invece della cena. No, oh, sei così carina. Cioè, che cosa succederà a questo figlio? Sarà una viziata. Se tutto quello che invece faccio è disciplina, e quindi mi comporto come un giudice, e questo non è pulito abbastanza, lavalo di nuovo. Per piacere, basta. E non parlare in quel modo. Se questo è tutto quello che io faccio, punire, allora che cosa causerà nel bambino, nel figlio? Lui sarà arrabbiato, diventerà ribelle. Ma vedete, la Bibbia ci insegna a usare queste due cose insieme. Jesus was mercy Gesù era grazia e verità insieme. Quindi come genitori dobbiamo imparare questo equilibrio tra l'essere forti e l'essere amorevoli. Quindi ha tutto a che vedere con l'equilibrio. Questo è il punto. Quello che succede è che molte volte le mamme tendono ad essere più amorevoli. Dai, lascialo fare solo per questa volta. Dai, su, va bene. E il papà che vede questo dice no, non sono d'accordo, per piacere. E quindi la mamma vede il papà come troppo severo, e così la mamma, quando nessuno guarda, sarà ancora più amorevole. Ma il papà lo vede. E quindi il papà è un tantino più duro. Ehi, non mi interessa quello che mamma ha detto. Io ti dico di no. E quindi che cosa succede? Che i genitori si allontanano sempre di più e di più. E allora poi hai pure problemi nel matrimonio. Invece di lavorare insieme e decidere, ok, come vogliamo discepolare, come vogliamo educare i nostri figli. Per quello che riguarda mia moglie e me, quando c'era una situazione di disubbidienza, noi provavamo a mandare il nostro figlio in camera e quindi noi cominciavamo a parlare della possibile soluzione. Ok, cosa facciamo? Come possiamo gestire questa situazione? E quindi noi parliamo, noi preghiamo, e quindi poi noi siamo d'accordo e poi andiamo insieme nella camera di nostro figlio, respiriamo, tiriamo un sorriso. Quindi dai, non ti preoccupare, sii forte. E quindi poi ci sediamo e diciamo, noi abbiamo parlato. E questo è quello che abbiamo deciso, questo è quello che succederà. Quindi i figli vedono unità in questo. Avete notato come i figli sono bravi a decidere a chi chiedere cosa? Se vogliamo qualcosa, allora andiamo da mamma. Ed è papà dice, no, vai a chiedere a papà. E noi non andiamo neanche, non ci disturbiamo neanche ad andare. Ma quando i vostri figli vi vedono sempre uniti, insieme, allora loro sanno che voi parlate come foste uno. E quando parlate insieme, allora cercate l'equilibrio tra l'amore e la disciplina. Perché ci sono situazioni, ci sono delle volte dove c'è bisogno di dimostrare amore e grazia ai figli. Perché tu puoi dire, ehi, questa è la regola. E tu conosci la punizione. Ma io vedo che ti sei pentito, vedo che il tuo cuore è triste per quello che hai fatto. E io mi ricordo quando ho fatto la stessa cosa. E Dio è stato compassionevole verso di me. E quindi io voglio dimostrarti la stessa grazia. Quindi non ti punirò, non ci saranno conseguenze. Questo è perché io ho deciso di rendere questo momento un momento di discepolato, di discepolare i miei figli attraverso questa situazione. Non è che ho cancellato quello che è successo e ho deciso di dimenticarmi. Ma ho sfruttato l'occasione e l'ho trasformata in un'opportunità per ministrare a mio figlio. È chiaro? Però no, noi possiamo farlo sempre. È perché questa è proprio la cosa che con la quale Paolo aveva un po' di difficoltà. E diceva, allora che cosa fai? Continui a peccare sempre di più, tanto dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda? No. Ma ci sono dei momenti dove noi dobbiamo dimostrare la grazia di Dio. Lasciate che vi dimostri un'ultima cosa. Vi è mai capitato di avere vostro figlio che ha fatto un qualcosa che davvero vi ha fatto arrabbiare? E subito dopo loro vengono da te e dicono, mamma, come ti voglio bene. Scusami se ho fatto questo. Ma io sono ancora arrabbiato. Per piacere, non parlarmi ancora. Tu non puoi venire e dire semplicemente scusami, perché io sono ancora arrabbiato. Io non voglio che mi chiedano scusa, perché voglio che loro paghino per quello che hanno fatto. Chiaramente mica lo diciamo ad alta voce questo, però lo sentiamo dentro. Dai, ammettiamolo, succede a tutti. Come gestisci la restaurazione? Nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 2, versetti dal 6 all'8, quindi 2 Corinzi 2, 6, 8. In primo Corinzi, Paul tells them they need to discipline a man. Paolo insegna che bisogna punire chi è stato immorale all'interno della chiesa. E quindi loro lo cacciavano via. Adesso lui si pente e quest'uomo ritorna in chiesa. E ci sono ancora in chiesa alcune persone che hanno un po' di difficoltà davanti a questa situazione. E Paolo insegna questo su come restaurare. Quindi genitori, questo è come si restaura la relazione con i propri figli. Nel versetto 6 dice: la punizione che avete dato loro è abbastanza, basta, è finita, non potete continuare a punire con il vostro silenzio. Ehi papà, sono tornato da scuola. Basta, è abbastanza, deve terminare. Quando loro ci dicono scusami, perdonami, noi dobbiamo accettare. Non puoi continuare a punire i tuoi figli. E nel versetto 7 instead, dice: adesso invece avete bisogno di perdonare. Io penso che i nostri figli hanno bisogno di ascoltare da noi le parole: ehi, ti perdono. E quello significa che non parlerò dell'accaduto con nessuno e non ripescherò la storia quando parlo con te e non ci penserò più. Basta, ti ho perdonato, ti perdono. E abbiamo bisogno di crederci e anche di dirlo. Then it says, and comfort him. E poi dice, e siate loro di conforto. And it says the reason is so they won't be overwhelmed with sorrow. Così che loro non possano essere sopraffatti dal dispiacere. And I think that comfort means, e io penso che essere di conforto significa the same comfort God. Lo stesso conforto che Dio usa verso di me, allora allo stesso modo io devo essere di conforto a loro. Quindi dopo che io dico ti perdono, continuo col dire: ehi, io so come ti senti. Io ho fatto la stessa cosa. Ho detto cose di cui mi sono pentito. E Dio mi ha perdonato e mi ha confortato. E non sei da solo. Io ho fatto la stessa cosa. Quindi non è solo io che do pieno della mia grazia perdono. Ma io sono con te. Io sono come te. E Dio mi è stato di conforto ed è per questo che io voglio confortare anche te. E quindi di nuovo si diventa fratelli e sorelle in Cristo. Non sei tu sopra ad un livello superiore e i tuoi figli a un livello inferiore. E poi l'ultima cosa dice: io vi ho ascoltato. E questo vuol dire riaffermare il proprio amore nei loro confronti. E tu lo sai che niente può cambiare il bene che ti voglio. Io ti voglio bene incondizionatamente. Ed è lo stesso amore che Dio ha per noi. Non possiamo fare niente per far sì che Dio ci possa amare di più. E non c'è niente, non c'è nessun errore che può portare Dio ad amarci di meno. E io ti amo proprio così, proprio di questo amore. Tu sei mio figlio. E io ti amo, ti voglio bene. Ora, questo è il modo per completare la disciplina. E poi potete uscire da quella stanza abbracciati, con una relazione che è stata restaurata. Amen? Cioè, ci rendiamo conto di quanto questa disciplina è grande? Ora adesso non puoi andare e semplicemente schiaffeggiare. Ma adesso vogliamo vedere i cuori dei nostri figli cambiare. Vogliamo vederli essere corretti. Li vogliamo vedere crescere in Dio. E più grandi diventano, e più a lungo questo processo si protrae. Questo può prendere giorni. E tu ritorni da tuo figlio e abbracci il processo. Perché è fondamentale, è importante. Ok. Ci sono delle domande riguardo questo processo che abbiamo appena descritto? Io voglio darvi l'opportunità di pormi delle domande. Io molto probabilmente non ho le risposte. Ho un'opinione. Posso raccontarvi qualcosa che noi abbiamo provato a fare? Qualcun altro nella stanza, nella sala può avere la risposta. E incominceremo con Alessandro. Ho una bimba di 2 anni che... che per quanto sembra ci capisca, per altre cose invece, in Italia si dice fa orecchio da mercante, cioè non vuole sentire. Tutto questo può essere comunque utile per quest'età. La tecnica del rinforzo in caso di buone azioni e può essere utile, o magari è solamente può diventare solamente un approfittare per avere la cosa buona del rinforzo. Allora, io penso che tu possa continuare a, con questa tecnica del rinforzo a dare buone conseguenze per un corretto comportamento. E quando invece è davanti a un comportamento non corretto, tu puoi semplicemente non prestare così tanta attenzione. Scusami, non posso giocare con te se ti comporti così. Vado a fare qualche altra cosa per un po' di tempo. E quando tu incominci ad ascoltare di nuovo, quando puoi sentire la mia voce, allora ritorno. Ma loro hanno bisogno di poter vedere praticamente una dimostrazione delle conseguenze. Perché non capiranno il ragionamento. Scusa, aspetta che ti faccio un grafico. Lo fai, cioè ti allontani, presti meno attenzione. Qualcun altro ha qualche consiglio per questa situazione? Quindi hai un consiglio? It's something that hai avuto dei figli diversi caratterialmente l'uno dall'altro. Attenendoti sempre a questi principi che tu ci hai spiegato oggi, il modo di approccio con ognuno di loro era diverso o era sempre uguale, anche se il carattere di loro era diverso? Yes. Sì. Tutti quanti l'abbiamo ascoltato, sì. You know the four personality types? Conosciamo i quattro tipi di personalità. Some kids are like the lion. Alcuni figli sono come i leoni. They are the ones who are strong. E loro sono quelli forti. They are bossy. E gli piace comandare. They like to make decisions. Amano prendere e fare decisioni. They are in charge. Sono a capo di tutto. I had to handle this child differently. E io ho dovuto gestire questo mio figlio in maniera differente. We learned that if we said at 6 o'clock you have to take a bath. Abbiamo subito imparato che se dicevamo alle 6 devi farti il bagno, la doccia. She didn't want to be told what to do. Lei non amava essere comandata. And would bring out her stubborn streak. E quindi questo atteggiamento portava, le faceva uscire tutta la testardaggine. It needed to be her idea. E aveva bisogno di credere che era una sua idea. So we learned to give her two choices. Quindi abbiamo imparato a darle due opzioni. I'm happy with either one. E io, a me stanno bene tutte e due. You want to take your bath at 6 or 6:30? Vuoi farti la doccia alle 6 o alle 6:30? 6:30. Le 6:30. Good. Va bene. Perfetto. No more fight. Yeah. E non c'è più motivo di lite. So we had to discover how to deal with this child. Quindi dobbiamo scoprire come approcciarci con il nostro figlio. I think the Bible says don't frustrate your children. Perché la Bibbia stessa ci insegna di non frustrare i nostri figli. Quindi dobbiamo capire il loro carattere, la loro personalità e approcciarci di conseguenza. Impariamo anche a disciplinarli in privato. Perché avevamo altri altri figli. Perché abbiamo altri tipi di figli che amano ascoltare e guardare. Yeah. And it didn't bond them together, yeah? E questo non creava molta unità tra di loro. We tried doing it in private. Quindi abbiamo deciso di farlo in privato. Do you have otters? Che cos'è, foche? Lontra, sì. Oh. Abbiamo la lontra. These are the children that just love to be active, doing things. E questi sono i bambini che amano essere attivi, fare tante cose. Fun, tutto è una festa, tutto è divertente. They make a joke about everything. E loro ne fanno uscire una storia da tutto, da ogni cosa. They love to make those noises to make everyone laugh. Amano fare le pernacchie, che tutti amano queste cose. E quindi questo tipo di figli li devi tenere occupati. And you have to make it fun. E devi rendere il tutto divertente. This child, I couldn't give them a list of chores. A questo figlio non posso affidare una lista di cose da fare. You have to do these four things before you can play. Ok, devi fare queste quattro cose prima di poter giocare. So we had to learn to say, how fast can you get all of those toys picked up? E quindi dobbiamo imparare cose come quanto veloce puoi essere nell'ordinare tutta la tua stanza. Dai, che ti cronometro. No, aspetta. Uno, due, go. Vai. E quindi loro corrono e fanno e mettono in ordine. So you have to understand them. E quindi dobbiamo capire. Then there is the, what is this? Cane. It's a dog. This dog in the US anyway is very loving. Ok, poi abbiamo il Labrador, mi sembra che si chiami. Some children that love relationships. e sono rappresenta i bambini che amano avere delle relazioni, del tempo di qualità e vogliono compiacerti. Guarda, guarda, ho fatto un disegnino per te, papà. E vogliono che tutti quanti a casa stiano bene, che nessuno pianga. Quindi questo tipo di figlio è il figlio magari più facile da gestire. E poi c'è il castoro. E questi sono quei figli che sono che amano gli obiettivi. Tutto quanto deve essere in ordine. E loro sono quelli che ubbidiscono alle regole. Loro sono quelli che verranno da te e ti diranno che qualcun altro non ha obbedito alla regola. E mamma sta toccando le tue cose preferite? E mamma, vuoi che faccia qualcosa? E quindi piacciono, a loro piacciono tutte le cose in ordine. Non toccare il mio giocattolo. E quindi i bambini, i figli, sono molto diversi l'uno dall'altro. E quindi loro crescono per diventare adulti, che saranno diversi l'uno dall'altro. E vi dimostro questo. Quanti di voi sono come i leoni? Che vi piace fare le decisioni, prendere le decisioni? Vi piace stare a capo? Alza la mano, non avere vergogna. Quanti di voi sono, oh, mi piace passare del tempo divertente, tutto è divertente, tutta una festa. E quanti di voi amano proprio le relazioni? Dai, siamo onesti, ci rispettiamo. Dai, teniamoci per mano. E quanti di voi sono proprio per le cose da fare, per gli obiettivi, per l'ordine? Ora, se tu sei un leone, qual è la tipologia di persone che ti frustrano di più tra questi? The party one. Ah, quello per il quale tutto è divertente. I'm trying to do something here. Allora, sto cercando di fare qualcosa qui. All you're doing is having a fun time. E tutto quello che voi fate è semplicemente divertirvi. So imagine a parent who is a lion. Quindi, immaginiamo un genitore che ha la personalità del leone. Who has a child who is Mr. Party. Che ha il bambino che invece, insomma, è sempre a festa. I'm serious. I'm telling you don't do that. Ma sono serio, per cortesia, non lo fare. Yeah? And you get very frustrated. E tu ti frustri. Now the same. What about a lion? Quindi la stessa cosa succede per un leone. That has a child who is a lion. Che ha un figlio che ha la personalità come quella del leone. C'è now una lotta. Yeah, do you have one? Perfetto. E la madre che fa, possiamo semplicemente pranzare? Facciamo sì che siamo una famiglia normale per una volta. Quindi è facile vedere come la nostra personalità influenza il nostro modo di essere genitori. E questo è Questo è il motivo per il quale dobbiamo collaborare tra marito e moglie e dobbiamo trovare l'equilibrio. Quindi sì, certamente ci dobbiamo approcciare in una maniera diversa. Ma ci sono delle regole a casa che saranno sempre quelle e varranno per tutti quanti nella casa. Ma il modo attraverso il quale le presenti e le descrivi, allora quello può variare in base alla personalità. Qualche altra domanda? La mia opinione è che è importante metterli a corrente, ma il modo attraverso il quale noi li mettiamo al corrente delle situazioni è molto importante. Non può essere preso da loro come un peso, così che loro possano sentire la responsabilità della situazione e sentono e devono sopportare il peso di una situazione di adulti, per adulti. Ma se tu presenti questa circostanza a loro come un'occasione per discepolarli, dicendo, sai, per questo periodo non avremo tantissimi soldi. Quindi questo è un periodo dove possiamo imparare ad essere, ad amministrare bene i nostri soldi, dove possiamo imparare a scegliere le giuste priorità. E saremo creativi sulle cose che possiamo fare, su quello che possiamo cucinare, non spendere tanto. Quindi sarà alle volte un po' difficile, ma sarà anche un'occasione per noi di imparare a vivere in uno stile di vita più semplice. Questa è un'opportunità che noi abbiamo di essere discepolati proprio anche spiritualmente. Per quello che riguarda i nostri figli, noi per 18 anni abbiamo vissuto in una situazione precaria, in povertà. E avevamo 3 dei 4 figli con degli handicap. Quindi noi abbiamo potuto insegnar loro presto, dicendo, preghiamo e vediamo come Dio provvederà per noi. È un po' troppo per le mie tasche, ma vediamo quello che Dio farà. E io mi ricordo Michael aveva 8 anni e i computer stavano uscendo in quel periodo. E siccome la sua grafia era così, era insomma non bellissima, voleva imparare a usare questi computer. E ha sentito a scuola che alcuni studenti avevano già questo computer. E noi non potevamo permettercelo. E lui lo sapeva e quindi ha incominciato a pregare. E una mattina è venuto e ha detto, mentre stavo pregando, ho visto un uomo con i capelli bianchi bussare alla porta e darmi un computer. Oh mamma mia, che cosa facciamo adesso? Io volevo davvero incoraggiare e benedire la sua fede. E lui stava proprio ponendo tutta la sua fiducia in Dio. E quindi abbiamo detto, ok, allora preghiamo insieme. Tre giorni dopo, abbiamo sentito bussare alla porta. Un uomo che era un volontario a scuola, con i capelli bianchi, aveva un cartone con dentro un computer per lui, era pronto a donarglielo. E noi eravamo sbigottiti. Però Michael ha detto, eccolo, è proprio come Dio l'aveva detto. Come abbiamo detto, Michael ha un handicap. E lui è un atleta. Lui sulla sedia a rotelle gioca a basket, fa tutti questi sport. E lui da sempre voleva correre. E quindi lui ha incominciato a pregare per delle scarpe che gli permettevano di correre. Sì, delle scarpe appropriate per permettere alle persone con disabilità di correre. E chiaramente noi non ce le potevamo permettere. Ma non abbiamo reso questo un peso per lui, ma abbiamo semplicemente sfruttato questa situazione come un'opportunità per pregare. E quindi con mia moglie un giorno si recarono in un supermercato e c'era un tavolo, un banco con delle scarpe in vendita e un paio di queste scarpe speciali. Proprio la sua taglia, proprio il suo numero. E l'hanno pagato solo $1. E mia moglie ha incominciato proprio a piangere. Ha preso il dollaro e ha comprato queste scarpe speciali. Oggi noi abbiamo quelle scarpe nella nostra casa. E quindi abbiamo insegnato ai nostri figli che Dio conosce ogni singolo bisogno e anche i desideri di un figlio con delle disabilità. Anche quei desideri non erano troppo piccoli per Dio. E questo è il modo che noi volevamo, secondo il quale volevamo che loro crescessero. Non come, non siamo poveri, non abbiamo soldi, come un peso. Ma che cosa Dio farà? Come provvederà? E risponde alla tua domanda. Bene, abbiamo finito, è tempo di concludere. Grazie mille per essere qui, per essere stati qui. Dio vi benedica. You have such an important job. Voi avete un lavoro così importante. Because God has entrusted to you. Perché Dio vi ha affidato those little children. I vostri figli. And he is asking you to disciple them. E lui vi sta chiedendo di discepolarli E questo deve essere il vostro primo ministero. Perché un giorno dovremo rendere conto. E facciamo in modo che siamo trovati fedeli. Amen? Thank you for coming. Grazie.